strage nei quartieri, ostaggio dei pensieri. Sta stroberi, calma e scleri, voglio prima che sto mondo m'avveleni. Qui non speri che sia per il sogno, non prendi sonno, cadi in fondo, perdi tutto in un secondo. Siamo prigionieri, vittime di tempi cupi, infedeli, senza cuori nudi, cresciuti soli come lupi. Non ho riflettori puntati, sorvegliati da puntati. Stiamo fuori da sta scena, da vincenti o da straiati. Indipendenti, solitari, differenti da voi divi. Qui non trovi mercenari, ma militanti attivi. Siete burattini, comandati, condannati, schiavi. Qui non vali, me ne foto delle troie che ti chiavi. Fatti chiavi, amicizia morta, armo la rivolta. Questa volta, amico, non ti salverà la scorta. Qui la gente sopporta sempre, non si arrende. Pretende ogni soldo che ci sei venuto a prendere. La mia penna sanguina, dentro sta poesia, ci sta tutta l'anima. Usa la fantasia, chiudi gli occhi e immagina di portare in pagina che un giorno questo mondo non ti emarcina. La mia penna sanguina, dentro sta poesia, ci sta tutta l'anima. Usa la fantasia, chiudi gli occhi e immagina di portare in pagina che un giorno questo mondo non ti emarcina. Siamo veri fino all'ossa, sofferenza come forza. Per quanto recitate vi hanno candidato all'Oscar. Crudo costa metrica, io sputo su tuoi format. Tecnica di occulto in rima, questo è Mortal Kombat. Papà, vaccino, vieni, vieni, chiedi in giro. Meglio un giorno da guardiani che una vita da crumino. Sotto tiro illuminati, voi politici indagati. Siete porci incravatati, ambasciatori dei peccati. Poi sia pure stanotte in compagnia dei miei fantasmi, con dei discorsi pieni di metafore e sarcasmi. Mio amico, la verità è l'arma che prediligo. Se guardi le mie mani, vedi stigmati da micro. Troppa delì, ti dico che sul beat io ti castigo. Sono freddo come l'isolator, chiuso dentro al frigo. Piegarti al tuo nemico, tira fuori il tuo carattere. Sei uno che si arrende, allora girati a battere. La mia penna sanguina, dentro sta poesia, ci sta tutta l'anima. Usa la fantasia, chiudi gli occhi e immagina di portare in pagina che un giorno questo mondo non ti emarcina. La mia penna sanguina, dentro sta poesia, ci sta tutta l'anima. Usa la fantasia, chiudi gli occhi e immagina di portare in pagina che un giorno questo mondo non ti emarcina. Sai quanti ne ho conosciuti di bugiardi e chiacchieroni? Quanti scarsi hanno smesso dopo una o due canzoni? Ne ho conosciuti molti che sembravano sicuri, altri fragili e maturi, pochi seri e seri puri. Chi resta vero e chi la gente poi ricorda? Scrivo note di rivolta e parli col demonio come immortal. E quanti falsi amici si trasformano in nemici? Vedi il volto dell'inganno nei malefici sorrisi. Riunite al tuo cospetto, quattro nomi ed un'idea. Il mio gruppo è in prima linea e mira sulla tua trincea. Questa è un'odissea di vite, lutte e ripide salite. Ambite ed inseguite, le battaglie condivise. E rap aperto di fiato, un urlo tormentato. Un padre ex divisa, poi si uccida da indagato. Ho dato tanto il cambio, prendo quello che mi aspetta. Ora guardo l'orizzonte, solo il vento mi accarezza. La mia penna sanguina, dentro sta poesia, ci sta tutta l'anima. Usa la fantasia, veniamo in studio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti e tutte, siamo qui per presentare un disco importantissimo, Intifada 2011, e siamo qui con i Rapcore. Buongiorno a tutti. Bella regata, Drut. Perfetto, manca soltanto un componente, Rusty, che per problemi di lavoro, di vita e di socialità non è potuto essere qui con noi, ma non ci importa, andiamo subito nel vivo della trasmissione. Che canzone ci andiamo a sentire? Dr. Cream, che canzone ci andiamo a sentire? Possiamo andare terra di conflitti. Perfetto, perfetto. Ovviamente è Intifada 2011, Rapcore. Vai. Alla ricerca del sapere, sugli abusi di potere, dove uccidere è un dovere. Puoi vedere come stiamo in mano, sono giorni tristi. Ministri che stringono le mani ai terroristi. Questo è il bel paese che si maschera borghese, ma tutti ormai lo sanno che l'inganno è palese. I miei non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Indossano il passamontagna, vanno a fare spese. Potente delinquente schiaccia sempre l'indifeso. Il popolo saluta il papa con il braccio teso. E il peso degli sbagli, dei sciacalli che governano. Io porto la voce di quelli che si ribellano, rime che ti atterrano come i colpi di un Uzi. Non vivo con il mito di Scarface nella Yakuza. Contro ogni corrotto, contro un mondo di massoni, io vado a fondo e vi denuncio nelle mie canzoni. Ti descrivo dove vivo, non esistono diritti. Stiamo sempre in guerra, è terra di conflitti, vittime di disinformazione di chi occupa. La situazione critica si salva chi si butta. Descrivo dove vivo, non esistono diritti. Stiamo sempre in guerra, è terra di conflitti, vittime di disinformazione di chi occupa. La situazione critica si salva chi si butta. Vivo in un paese che mi tiene all'angolo. Madonne piangono, le chiese ingannano, mafie comandano. Salgono tutti con le stesse promesse in cima, ma non cambiano le cose, qui rimane come prima. In un clima brutto scrivo prose in muto, sogno il nuovo indulto, incito con pacino e truto. Un altro punto, quello che sentivo il frutto di rabbia e rancore, vita sofferta dove è certa la morte e il dolore. Stato d'allerta dal centro fino a giù in periferia. In questo tempo c'è dittatura, non democrazia. Questa tirannia ci arresta per stupefacenti in via, poi ne comprano di più potenti in ogni farmacia. È follia su strada in ogni parte del pianeta, qui non c'è moneta e la mia gente si è stufata di sta dieta. Sta nazione ci viene e ci cresce con la catena, poi ci butta in prigione senza sconto della pena. Ti descrivo dove vivo, non esistono diritti. Stiamo sempre in guerra, è terra di conflitti, vittime di disinformazione di chi occupa. La situazione critica si salva chi si butta. Ti descrivo dove vivo, non esistono diritti. Stiamo sempre in guerra, è terra di conflitti, vittime di disinformazione di chi occupa. La situazione critica si salva chi si butta. Questo stato è corrotto e putrefatto nell'interno, affaristi, pituisti e terroristi nel governo. Guarda Napoli e Palermo dare cassonetti in fiamme per gli appalti contraffatti e i contratti con le banche. Nelle falde del terreno poi il veleno si dispande, mamme contaminate hanno figli senza gambe. La sanità è di pochi come negli Stati Uniti, tasse alte a masse basse per le tasche dei partiti. Benvenuto nello schifo dove vive questa Italia, il ladro è chi governa, l'innocente è chiuso in gabbia. Il povero non mangia ma si arrangia negli stenti, il ricco è chi ci sfrutta e ruba sui nostri stipendi. Non credo nella chiesa se nascondi i suoi peccati, professava l'uguaglianza con le spade dei crociati. Dopo c'è un ideale che si incarna nel mio nome, alza il pugno e grida forte viva la rivoluzione. Ti descrivo dove vivo, non esistono diritti. Stiamo sempre in guerra, è terra di conflitti, vittime di disinformazione di chi occupa. La situazione critica si salva chi si butta. Ti descrivo dove vivo, non esistono diritti. Stiamo sempre in guerra, è terra di conflitti, vittime di disinformazione di chi occupa. La situazione critica si salva chi si butta. Ah, bella regà, questa è Rapcore. Siamo qui a Radio Onda Rossa, bentornati, e questa era Terra di Conflitti, estratta da Intifada, l'ultimo CD Rapcore, in free download su www.produzionirapcore.it. Bella Claudio. Allora, che dici, Terra di Conflitti, che vuol dire? Terra di Conflitti, in questo momento storico per noi, è il nostro paese, l'Italia, la Terra di Conflitti. Un paese dove magari non c'è una guerra in atto, ma noi ogni giorno l'avvertiamo come una guerra, perché soltanto alzarsi, affrontare la giornata lavorativa o tutti i cazzi che servono per sopravvivere, per noi comunque stare in una terra di conflitti, e per esserlo devi essere un soldato. Appunto, perché soprattutto per vivere in questa vita, in questa Italia, c'è bisogno di risorgere e di lottare. In questo CD appare molto questo discorso, il fatto che appunto un istinto di rivalsa c'è in questa società e voi lo esprimete nella vostra lotta personale per emergere da questa scena decadente del pop. Per noi ad esempio la nostra lotta è il rifiuto, nel senso è il rifiuto di omologarsi, di fare parte di certi standard, di certe idee comuni che sono in Italia, perché diciamo la resistenza si è molto assopita. La nostra è una resistenza, diciamo, verbale, una resistenza mentale, perché ci sono molte cose che non ci vengono dette, ma noi le sappiamo, le possono nascondere quanto vogliono, ma prima o poi, diciamo, tutta la merda verrà a galla. Cioè, ancora ci vogliono dire, ad esempio, che la mafia è una cosa ristretta alla Calabria, alla Sicilia, che è il vecchio con la scoppola. Cioè, noi sappiamo cose perché ci siamo documentati, che ci hanno ancora più fatto salire, diciamo, lo sdegno verso questa società, verso queste istituzioni. Perfetto, e allora, insomma, continuiamo in questa narrazione di un'Italia in crisi con Brucerò in Eterno, un pezzo importantissimo che cambia anche il tono a un CD che è fondamentalmente rap hardcore. Sì, guarda, Brucerò in Eterno è senza dubbio, in un certo senso, il pezzo anche un po' più fresco del disco, che nonostante l'argomento non sia dei più felici, perché a modo suo parla di un addio. Però penso che sicuramente abbia il tono più fresco di tutti quanti gli altri pezzi, e adesso non ci resta che sentircela. Dai, andiamo a sentirci un altro estratto dal CD Intifada Rapcore 2011. Svegli sveglierai da sole mentre leggerai i miei versi. Li capirai tutti i miei guai, ma ormai ci siamo persi. Li cuori dentro ai cuori, cuori come Sid & Nancy. So psycho love story, troppo simili e diversi. E amara ma calma, ti aggrappa, ti salva, ti guardami e troverai pace. Ci sprani in un mondo di cani, qui vince chi mangia in maniera del tutto vorace. Subito dubito tutto il mio pubblico, dimmi chi mi ama davvero. L'ultimo leader rappero sincero, col cielo di un cielo che è sempre più nero. Bloccami se esagero, sto in volo a petto d'angelo. Da qua io vedo la città che scorre mentre immagino che tra l'amore e l'odio non esiste nessun vincolo. So pronta anche ad uccidere per uscire da quest'incubo. So brutti ricordi tra le mie storie, sempre amore e set, cancello memorie. Via paranoia, il ghiaccio si scioglie, arrivano gioie, rancore si toglie. Il sole cala come lacrime dal tuo mascara, mentre leggi queste pagine di addio mia cara. Sayonara, non dirmi no, né come sto, queste storie te non puoi vedere. Odierò, ti sognerò, ti cercherò tra queste stelle. Lo però, sì lo farò, arriverò fino all'inferno. Nel tuo mondo in fondo già ci sto, so già che brucerò in eterno. Non dirmi no, né come sto, queste storie te non puoi vedere. Odierò, ti sognerò, ti cercherò tra queste stelle. Lo però, sì lo farò, arriverò fino all'inferno. Nel tuo mondo in fondo già ci sto, so già che brucerò in eterno. Penso troppo assiduamente, piove sempre e opprimente. Niente dura, la morte è sicura e ci consuma lentamente. Parlo a Dio ma non mi sente, no. Sto impazzendo ultimamente. Vedo la gente che non mi comprende, che si mente indifferente. Chiedo a Dio che mi attende in questo presente di sofferenze. Cerco una musa, luce soffusa, brucia il cuore intensamente. Rappo solo verità che voi ciecamente ignorate. Quindi adesso non vi aspetto, scappo via e cerco la pace. Io ti lascio, scusa se l'ho fatto, parto senza ritorno. Cercami in un sogno, quando hai bisogno il mondo ti crollerà attorno. Perché il giorno è troppo breve, mentre le notti lunghe e infinite. E ora esplodi in volo, viaggio da sole, vedo il mondo in superficie. C'è chi dice, pensa egoista, vivi felice, mi guardo e ride. Io non mi scordo di ogni torto e delle ferite, patite e subite. E lo sconforto che mi uccise, sono risorto dopo l'oblio. Lascio i miei versi come testimoni in questa lettera da Dio. Non dirmi no, né come sto, queste storie te non puoi vedere. Odierò, ti sognerò, ti cercherò tra queste stelle. Lo però, sì lo farò, arriverò fino all'inferno. Nel tuo mondo in fondo già ci sto, so già che brucerò in eterno. Non dirmi no, né come sto, queste storie te non puoi vedere. Odierò, ti sognerò, ti cercherò tra queste stelle. Lo però, sì lo farò, arriverò fino all'inferno. Nel tuo mondo in fondo già ci sto, so già che brucerò in eterno. Sai che non parlo troppo orgoglio, mi confido con il foglio. Non sto calmo, non sorrido, muoio se non arriva quello che voglio. Cuore in marmo, io che mento, non chiedo scusa. Sai non mi pento, il c'è spento, oggi non sento ogni tua accusa, ogni la mia tormento. Senza una musa sto attento, nel letto non porto nessuna. Fanno le fusa, provi affetto, col tempo la fata diventa medusa. Siamo persi, diversi ma uguali, crisi di nervi, scompensi ormonali. Mezzi animali, versi immorali, dati da sequestri e verbali. Non hanno il mio cuore tra le mani, non programmo mai il domani, serve un grammo di manali per tener lontani i pensieri strani. Qui non sali, scendi, non ti arrendi, cadi e ti riprendi. Non mi servi, sei finta come le tue scarpe fende. Tenti amore in cambio dai tradimenti, senti non ti offendi. Se non trovo più argomenti e provo a levarti gli indumenti. Mi rendi freddo come l'inferno, ma dentro brucio come l'inferno. Schivo all'esterno e mi odi perché non ti dico mai che sarà eterno. E questa era Brucerò in Eterno. Un altro pezzo estratto da Intifada, dalle produzioni sempre Dr. Cream. Questo è un pezzo a cui siamo molto affezionati, soprattutto in questi giorni, perché stiamo preparando il videoclip di questa canzone. È sicuramente un pezzo che è fuori da tutti gli standard rispetto agli altri che abbiamo scritto fino adesso, ma ne vedrete delle belle a breve. Il video di Brucerò in Eterno. E a posto, dopo aver ascoltato Brucerò in Eterno, c'è il capitolo Vittima di Stato. Questa canzone è dedicata a una persona che ha lottato contro la mafia, insomma prima se ne è parlato, e ha pagato con la sua vita questo diciamo affronto. E quindi giustamente si è deciso di fare uno storytelling, e quindi credo che sia importante anche raccontare perché nasce questo storytelling. Sì, guarda, nasce innanzitutto, questo è un pezzo che ho scritto nel all'incirca 2 anni fa, quindi è una canzone anche ormai inizia ad avere una data, però Sicuramente ho voluto esprimere il mio punto di vista verso quella storia che secondo me in un certo senso non era stata raccontata come avrebbe dovuto. È stata fatta anche in altri generi, molte altre persone hanno raccontato questa storia, ma questa è stata la mia chiave, insomma, il mio modo di denunciare questo fatto, questo episodio. No, anche perché insomma è importantissimo il fatto che voi non è che vi scagliate semplicemente contro la mafia, il titolo è emblematico, è vittima di Stato, esatto. Perché poi è ovvio che uno può anche chiamarla mafia, ma se poi le responsabilità si trovano dentro gli apparati dello Stato, bisogna fare anche una denuncia molto chiara. Questa storia è stata messa in secondo piano, ovviamente non dipendeva dalla mafia, ma sicuramente da qualcuno sicuramente molto più in alto. Per questo, visto che è stata messa molto in secondo piano, al giorno d'oggi ho cercato di ricordarla a modo mio. In un certo senso a me ricorda anche quel passaggio che hanno fatto interessantissimo i Gosang nel loro CD, appunto che non è che hanno semplicemente accettato la loro versione sulla Gomorra, ma hanno anche raccontato insomma di chi non fa il nome del sistema ma non quelli dello Stato, che è esatto. La denuncia dei Gosang che hanno fatto rispetto a Saviano e tutta questa gente, insomma. Quindi forse vittima di Stato anche in questo senso riprende questo discorso dicendo che appunto non c'è soltanto la mafia ma c'è anche lo Stato in mezzo a questa storia. E quindi direi che è il momento di andarsi. Vittima di Stato, De Al Pacino e Dottor Cream, Intifada, Rapcore. Ma tu non lo capisci che se parli così quelli ti ammazzano. E se quelli mi ammazzano tu che cosa fai? Ma il male alla radice, io adesso rappresento chi ha le palle e ve lo dice. La mia guerra è bella ma il paesaggio si rattrista. Se sei un antifascista, socialista di sinistra, è una lotta continua dalla sera alla mattina. Comincio occupazione e mi guadagno la mia stima. Ho la mafia che mi caccia, sopporta la mia satira. Giro a testa alta e con la pistola scarico ogni infamia, ogni galla, voglio comunicarla. La mia è una voce scomoda, voglio razzittarla. In radio ascoltate un cronista che vi parla di casi irrisolti, troppi torti e morti a galla. Sale la tensione, la situazione è drastica, ma non mi rassegno sotto il segno della svastica. Capisco che mi aspetta, ma non mi spaventa. Non treme e non temo anche la fine più cruenta. Qua sono. Ora smontate tutto. Noi non togliamo niente. Ora togliete tutto, togliete tutte queste cartelle e ve ne tornate subito a casa. La nostra Costituzione sancisce la libertà di parola. Ma quale libertà di parola? Onda pazza, in radio, passa il mio programma. Causa pochi sorrisi, numerose crisi e dramma. Mia madre non si calma, le lacrime le spreca. So bene dove vado, mai andato alla cieca. Credo nella mia democrazia proletaria. Rimo contro il marcio, il corrotto dell'Italia. Per questo che il mio corpo neanche tocca il suolo. Assalta in aria morto, avvolto nel tritolo. Oggi 9 maggio, finisce il mio coraggio. Ostaggio della realtà che porto nel linguaggio. Questo è un giorno triste che rovina e sporca la fedina di un paese. Se ti ammutina chi non gli si inchina. E allora, primo luglio in concerto, Rapcore con sì. Artificial Kid, con Gengis, Ostia. Con Barra Cruda, a Ostia. Torniamo dopo un bel po' di tempo a suonare nel posto dove tutto è iniziato.

tutto un discorso distinto di rivalsa, come già abbiamo detto in precedenza. C'è questa roba in questa canzone, insomma, appunto, cosa vuol dire distinto di rivalsa nella vita più che nel rap? Diciamo, nelle liriche, in quello che esprimiamo, c'è sempre un forte velo di amarezza, perché comunque sono storie ad esempio tristi, come può essere quello che racconto, la mia vita stessa. Però c'è sempre una voglia di farcela, una voglia di emergere, di trasformare, diciamo, in energia positiva i drammi che ci sono successi, per dare anche, diciamo, speranza a chi ci ascolta. Appunto, allora ci andiamo ad ascoltare Notte d'autunno, che produzione di Argo Beat, grande grande beat tra l'altro, e andiamo subito ad ascoltarcela. Vai, manda la base, dottore. Sì. Adesso vi riporto indietro. Notte d'autunno, fumando lui pensava taciturno. Un alunno a settembre con la mente verso giugno. E a scuola si sentiva fuori luogo. Le lettere a sua madre, le strillate. Ogni mese era un colloquio, il suo sfogo. Rimare ciò che ha visto, seduto in fondo all'auto, pena in mano. Si confessa nel tragitto, è convinto. Lui sa quello che vuole, ma spesso c'è un'angoscia che lo blocca e non fa uscire le parole. E non sta calmo ogni tanto, piangeva chiuso in bagno. Ogni anno sua madre aveva un altro compagno, nessuno con i soldi per poterli mantenere. 16 anni in cerca di risparmi ed un mestiere. Suo fratello passava i pomeriggi nelle bische. Interessi differenti, ma solo che lo capisce. Da quando il padre è morto sono cresciuti in fretta. Giocavano a tedesca, ma l'infanzia passa svelta. Ora cerca la strada del riscatto. Riflesso nello specchio immaginava di reppare sopra un palco. Dopo chiudeva gli occhi e volava via lontano, tra i suoi sogni col conforto che non ha sofferto in vano. Mi ricordo i sogni di un ragazzo solitario. Sono tutto ciò che aveva e li scriveva su un diario. Gli attesi, difesi per lunghi giorni interi, e non smette di inseguirli neanche oggi come ieri. Mi ricordo i sogni di un ragazzo solitario. Sono tutto ciò che aveva e li scriveva su un diario. Gli attesi, difesi per lunghi giorni interi, e non smette di inseguirli neanche oggi come ieri. Mi ricordo, rappava i suoi versi all'intervallo. Gli amici un po' stupiti cominciarono a incitarlo. Era bravo e amava se doveva dimostrarlo. Una luce nei suoi occhi fulminava ogni sguardo. E da sempre lui scrive senza tregua. La voglia di capirsi e di narrarsi gli dà sfogo e lo completa. Ma il rap è il suo migliore amico. C'è stato quando ha pianto, quando ha riso. L'ha seguito e mai tradito. E poi gli ha dato un valido obiettivo, modo di redenzione, un nuovo nome. La passione in un motivo, non ha niente da perdere. Ed è questo che lo incita e aspetta con ansia la sua intima rivincita. Mi ricordo i sogni di un ragazzo solitario. Sono tutto ciò che aveva e li scriveva su un diario. Gli attesi, difesi per lunghi giorni interi, e non smette di inseguirli neanche oggi come ieri. Mi ricordo i sogni di un ragazzo solitario. Sono tutto ciò che aveva e li scriveva su un diario. Gli attesi, difesi per lunghi giorni interi, e non smette di inseguirli neanche oggi come ieri. E allora, Deal, su che cosa state lavorando? Allora, stiamo lavorando innanzitutto su un sacco di video di Intifada. Stiamo facendo i video di molte tracce. Adesso tra cui Terra di Conflitti, tra cui Brucerò in Eterno. Stiamo facendo Occhi Vitri con dei registi anche di alto calibro. E molti sono anche, alcuni sono amici nostri che stanno alle prime armi, ma verranno sicuramente dei bei lavori. Stiamo lavorando anche al nuovo disco di Rasti, che uscirà, speriamo, per settembre. E soprattutto stiamo lavorando al nuovo disco Rapcore, quindi stiamo cercando di elaborare il sound che vogliamo ottenere per iniziare a scrivere tutti i pezzi nuovi, ma ci stiamo lavorando e puntiamo di essere fuori per prima della fine dell'anno con un nuovo disco. Bene, bene, quindi si produce. Si produce in casa Rapcore. E allora vogliamo fare un attimo un salto, direi nel passato, però anche questa è una canzone freschissima, un video freschissimo, sta girando parecchio. Questa è Pugni al cielo. Vai. Pensando a un colpo di stato, il fiato come propaganda cambia un disperato in un soldato. Chi è nato condannato, chi soffre, chi subisce. Politiche fasciste fanno masse crocifisse. Adesso ascolta, rimo, ispiro una rivolta. Rappresento chi si rompe il culo in cerca di una svolta. Disperati, disagiati.